Mi ci sono voluti 11 anni per capire. A 14 ho preso il mio primo stipendio, 1.200.000 lire. Bello, i primi soldi tuoi, e allora lavori ancora e la paga aumenta, e aumenta il conto in banca, e aumentano le cose che puoi comprare. E nel 2004, mio padre, uomo che aveva lavorato tutta la vita, decide che è ora di fermarsi e molla il lavoro. Un anno dopo, muore. Mi ci sono voluti 11 anni, ma quando è morto mio padre ho capito. Ma non vi dico cosa. Anzi, no, ve lo dico, ma alla fine dello spettacolo. Lo so, sono un po' carogna. Fatto sta che da quel momento in poi ho sempre rifiutato di accettare passivamente una legge non scritta che non riuscivo a capire fino in fondo. Se non lavori, non mangi. E quindi se non mangi, muori. Non mi sembra un orario consono per parlare di cibo, quindi ci restano lavoro e morte. Ma come fai? Come fai in 2 ore a parlare di lavoro e morte? Semplice, scrivi un bignami, una bella sintesi, perché oggi non c'è più il tempo di leggere un libro. E se parliamo di lavoro e morte, di libri potremo leggerne uno al giorno per tutta la vita. Sì, è vero, ci abbiamo provato. Ma è stato subito chiaro che la nostra stabilità psicologica non sarebbe più tornata a essere stabilità. E allora abbiamo ristretto, tagliato, escluso, forse anche menomato le tantissime storie dei nostri concittadini vittime del mercato del lavoro. Ma non ce ne vogliano, è stato necessario, perché nell'era degli SMS non puoi raccontare parola per parola i promessi sposi. Chi ti ascolta? Meglio un bignami, magari non su carta, ma a teatro, uno spettacolo sulle morti per lavoro, potrebbero anche essere 20 minuti di assoluto silenzio. Ma anche 120 di totale frastuono. E noi non so perché abbiamo scelto la seconda ipotesi. Anzi, no, lo so il perché. Perché ci siamo rotti le scatole di chi continua a chiedere che si abbassino i toni, che si torni al dialogo, che si privilegi la trattativa. Quale trattativa? Chi dovrebbe trattare con chi? Come potete pretendere che nel 2010, con quello che sta succedendo, noi si rimanga calmi, che tanto c'è sempre qualcuno che tratta per te? E io? Tu non sei all'altezza. Come non sono all'altezza? Non hai la dialettica. Scusa, la dialettica. No, ma li senti come parlano? Guarda, io non ci sto più. Così un giorno comincio a girare l'Italia in cerca di un prologo al mio Bignami, perché sono stufo che mi si dica sempre che cosa leggere. E io che non sono un grande lettore, arrivata a metà, mi perdo, sono confuso, non ho tempo, sono stanco e allora dico, toh, prendi, leggilo tu per me, il libro della mia storia. Passo Marghera, Padova. Brescia, Milano, mi allungo fino a Torino, giù a Genova, rientro a Bologna, scendo lungo l'Appennino verso la capitale, supero Napoli, la Lucania, i Sassi di Matera e poi sempre dritto fino al mare, Golfo di Taranto. Eccolo, il prologo al mio Bignami. È vicino alla città, ma è grande, 2 volte e mezza la città stessa. È uno stabilimento immenso, si chiama Ilva. 13.000 dipendenti, 4.000 dell'indotto, producono 9 milioni di tonnellate d'acciaio l'anno. La più grande acciaieria d'Europa. Proprietario il gruppo Riva. Ma l'Ilva è anche sinonimo di un altro primato, quello delle morti sul lavoro. E come se non bastasse, ha pure quello della diossina emessa. Farò tardi! Farò tardi, aveva detto Antonino uscendo di casa. Non era una novità. Una volta aveva lavorato giorno e notte senza pause. Qualche ora prima, il 18 aprile 2006, Antonino si era già fermato a causa di nausea e capogiri durante la pulizia delle tubature. AFO si chiama. Gas inodore, incolore, insapore. Usato per fondere l'acciaio. Inodore, sì, ma altamente tossico, letale. Antonino lo inala su una conduttura alta 20 metri. Quanto sono 20 metri? 3 anni prima altri 2 operai sono morti lì, nello stesso punto. Dopo Antonino Mingolla, altri 4. Prima, il 9 maggio 2005, muore Luigi Di Leo per la caduta di un carro ponte. Il carro ponte è una di quelle grandi gru che avanzano su binari. Quello che travolge Luigi cade dopo essersi scontrato con un suo simile. Ma entrambi avevano i dispositivi anticollisione non funzionanti, né funzionavano quelli di fine corsa, e il pulsante di frenatura era rotto, e il freno idraulico era smantellato e basta. Pochi mesi dopo muore Giovanni Satta, dipendente di un'impresa esterna. Per legge, la demolizione di un edificio deve avvenire dall'alto verso il basso, ma quella ditta lavora alla base, tagliando i pilastri, tirandoli con cavi d'acciaio. Si fa prima, dicono, e per far prima un solaio di cemento casca in testa a Giovanni. Ma padron Riva, padron Riva è il direttore dell'INAIL, il gigante dalla sua. Gigante sostiene che la colpa è degli operai. Se il lunedì è il giorno in cui gli incidenti sono più frequenti, è perché il fine settimana si stancano troppo o dormono poco. Non è colpa dell'azienda. Vien voglia di chiedere se Gigante non sia sul libro paga di Riva. Si vorrebbe che quei ragazzi che passano le giornate tra i fumi della cokeria, dove benzopirene presenti in quantità cancerogene, a mangiare la polvere nera che piove sulla città Ilva, che si alzano alle 5 di mattina e dopo 11 ore non gli resta che dormire, rinunciassero all'unico giorno di vita che gli rimane, neanche fossero cavie da laboratorio. E nel nome del mercato un babuino fu comprato per la sperimentazione in un call center di Riccione. Alla scimmia fu affidata una mansione di facciata per vedere se l'animale incominciava un po' a parlare. Tutti intorno i suoi colleghi, laureati e con la lode, salutavano tra i denti chi pareva non sentirli, non vedendo migliorare capacità dell'animale. Si pensò ad un modo nuovo, avanzandolo di ruolo. Quando fu caporeparto, pare quasi fosse sordo e per quello di parlare non pareva di capire. Fu chiamato anche un dottore animalista e un ingegnere per poter fidelizzare quella bestia al suo mestiere. Non riuscendo nell'intento, si guardarono perplessi, suggerendo un cambiamento per aver degli interessi. Non capendo, un po' distratti, senza chiedere spiegazione, fecero defenestrare l'attuale direttore. Sulla poltrona di pelle ora sedeva l'animale che dettava la sua legge, evitando di parlare. Con gli occhiali sopra il naso aumentava gli stipendi, rivedeva tutti i conti e minacciava i dirigenti. Fino a che un vecchio azionista lo chiamò un bel di gibbone, non potendo sopportare tale scambio di persona, rassegnò le dimissioni e si portò via la poltrona. Lascio scritto poche righe, un ritaglio di giornale. Io non sono mica un fesso, avrei potuto anche parlare. Non l'ho fatto solamente per non finir come sta gente, vittima del capitale, esser messo a lavorare. Karoshi è l'espressione giapponese che sta a significare morto per eccesso di lavoro. In Giappone ogni anno sono più di 5.000 i suicidi causati da eccesso di lavoro. I suicidi sono vittime anche loro. E si sa, la gente ama le vittime. In certe case ne vanno letteralmente pazzi. Accendono sempre il TG a pranzo, che se non vedono la vittima del giorno, gli pare che non è ora di mettere in tavola. Guarda, guarda, guarda, guarda la hostess che si è impiccata, l'operaio arso vivo, che schifo, si squaglia tutto, e l'immigrato ammazzato dalla mafia. No, frega niente, cambia canale. Le vittime dell'amianto, come se la colpa fosse dell'amianto. E il manager che si è buttato dal sesto piano, e il bambino sfruttato nel sud del mondo, povera creatura, una vittima anche lui. Passami le zucchine, per favore. Basta con le Basta con le vittime, hanno detto il ministro, il sindacalista, il vescovo e persino il Consiglio europeo. Ma glielo dici tu alla gente che all'ora di pranzo non si vedranno più le vittime del lavoro, dell'ignoranza popolare o quelle del mercato? Io credo che la gente sia attratta dalla parola vittima solo perché è un altro modo per dire morto. E si sa, la morte resta un evento interessante come pochi altri, perché non è mai morto e basta. È morto annegato o bruciato, magari schiacciato, investito, sparato. La storia della modernità è la storia delle vittime. La storia delle vittime dell'imposizione del lavoro. Nelle antiche civiltà, infatti, esistevano sì diverse forme di dipendenza, ma non la dittatura del lavoro. È con l'emergere del protestantesimo che ciò prende forma, che l'uguaglianza di tutti di fronte a Dio diventa la solitudine, di fronte alla legge come di fronte al mercato. Gli uomini vengono scacciati dai loro campi per far posto alle greggi per i lanifici. Gli antichi diritti di cacciare, pescare e raccogliere sono aboliti. E quando le masse impoverite cominciano a vagare rubando e mendicando, vengono rinchiuse in manifatture dove loro imposta a bastonate una coscienza da schiavi. Le rivoluzioni borghesi spostano solo i rapporti di forza. La schiavitù social darwiniana sta prendendo forma. Ne sono prova nel 1786 le parole dell'abate lionese Maillet. Si sa che per definizione l'abate è grasso. Più grasso? Più grasso ancora? L'abate grasso dice che per assicurare prosperità alle nostre manifatture è necessario che l'operaio abbia quel tanto che gli occorre per nutrirsi e vestirsi. Se poi la necessità cessa di costringerlo a ricevere qualsiasi salario gli si offra, sapendo che il mercante non può fare a meno di lui, oserà prescrivergli leggi che metteranno quest'ultimo nell'impossibilità di sostenere la concorrenza, e da ciò deriverà la totale rovina della fabbrica. È dunque importante trattenere l'operaio in un bisogno di lavoro continuo. Pare semplice. Ma non è stato così. Le ribellioni contro il lavoro si contano a decine, dalle guerre contadine del 4-500 fino ai movimenti luddisti in Inghilterra e alla rivolta dei tessitori nel 1844 in Slesia, si snoda una lunga catena di battaglie per resistere al lavoro, che poté essere vinta soltanto manu militari. E anche di queste battaglie vogliamo raccontare. Perché quegli uomini e quelle donne per le strade di Parigi non sono altro che i precursori dei nostri morti sul lavoro. Per fare questo chiediamo aiuto alle parole di Roger Bordier. Perché quando si annunciava il 1830 non avete trovato niente di meglio che mandar pallottole a quei giovani muratori del dipartimento della Crussa che crepavano di fatica per un tozzo di pane a pranzo, un brodo la sera e un materasso marcio la notte. Fuoco! Perché nel 1834 in Rue Trasnonain avete sparato nelle cantine dove vivevano famiglie operaie per una debole insurrezione e qualche barricata. Morirono così donne, vecchi, bambini. Fuoco! Fuoco sui proletari del giugno 1848 che furono pure fra gli insorti di febbraio. Fuoco! Perché durante la sanguinosa settimana del maggio 1871 avete scatenato la caccia ai bambini convinti che avessero appiccato molti incendi. Quattro bambini vennero fucilati con la loro madre che si era appena procurata del petrolio di illuminazione. Altri furono portati in caserma e passati per le armi. Canaglie! A questa temibile e vile categoria apparteneva anche il piccolo Émile Corneille, che il primo maggio del 1891 a Fourmies, con il magro corpo crivellato di pallottole, ebbe come un lungo spasmo davanti al caffè La Backdoor, dove cercava rifugio. Aveva 10 anni e portava addosso quella misteriosa arma che gli venne trovata in tasca al momento di seppellirlo. Una trottola. Fuoco! Fuoco a Parigi, fuoco alle Rekmer, fuoco a Fourmies, fuoco alle Havre, fuoco e ancora fuoco! La mattina del primo maggio 1890, davanti la filanda La Saint-Pareil di Parigi, dove un reparto armato intervenne, arrestando diversi uomini. Di fronte alle proteste delle loro mogli, si assicurò che sarebbero stati rilasciati entro mezzogiorno, ma non successe niente. La rabbia cominciò a montare. Il pomeriggio, il corteo. Fuoco! Una ragazza di 20 anni, Marie Blondeau, marciava in testa, con in mano un ramoscello di biancospino. Fuoco! Colpita in pieno viso, Maria venne letteralmente scotennata. La sua lunga chioma rossa si alzò in volo con il biancospino nella bella luce del nord. E non la ritrovarono più, quella chioma. Si trovarono solo parti di cervella e di ossa all'angolo del marciapiede. Altri manifestanti vennero inseguiti a Montmartre fino alle vecchie cave, dove urtarono casualmente contro i sostegni di contenimento del terreno, diventando un bersaglio perfetto. Che bell'esercizio! Salva su salva caddero tutti, non un solo superstite, una Rue Trasnonain a cielo aperto. Come basta? Basta, dite voi, anime delicate, che sapete pregare così bene per le salite in cielo e le risalite in borsa. Basta! Ma cosa credete? Vi furono 9 persone uccise quel giorno. Il più piccolo aveva 10 anni. Fuoco. A Fourmies vennero per la prima volta sperimentati su bersagli umani i fucili Lebel, che sostituivano il più pesante Chassepot. Quei fucili servirono per altre ricorrenze del 1° maggio. Poi ci furono altri fucili e altri uomini dietro i fucili. E altri uomini ancora dietro gli uomini, alcuni sistemati ai massimi livelli politici. Brillanti livelli, talvolta. Fuoco, sono soltanto operai. Prima guerra mondiale. Lo so, la sapete tutti a memoria. Caporetto che adorna le trincee. Ma no, no, questa non è la solita storia di guerra. Questa è una storia di buio e 600 metri di muro. Là, sopra, sul tetto lungo e piatto, c'era scritto ThyssenKrupp, acciai speciali. Ve l'ho detto, non è la solita storia. Sì, anche qui ci sono i morti, ma sono solo 7. E poi sono diversi. Non puoi paragonare i soldati in trincea con gli operai della Thyssen. I secondi sono morti per un guasto a una macchina che produceva acciaio in una fabbrica della Thyssen. I primi, i soldati, morti per una granata o una pallottola sparata, che so, da un mitragliatore fatto d'acciaio, magari d'acciaio Thyssen. Ah! O di acciaio Krupp. Eh? Krupp. C'era acciaio Thyssen e acciaio Krupp nella Prima Guerra Mondiale, due dei più importanti produttori d'armi dell'epoca. Nel 1999 i due si uniscono e nasce la ThyssenKrupp, 190.000 dipendenti, 400 progetti in 45 paesi. Senza l'acciaio non si vive, le macchine non si fermano mai, giorno e notte, 24 ore su 24, mai. Fino al 6 dicembre 2007, sulla linea 5, reparto di trattamento termico e decappaggio, dove i laminati sono portati ad alta temperatura, resi sottili e raffreddati in bagni d'olio. Da qui escono posate, pentole, coperchi, ma anche tubi e lamine per le lavatrici. All'1:30 di notte il nastro d'acciaio scorre, sbanda, scintilla, la carta fa da miccia, si spezza un flessibile pieno d'olio che si trasforma in un lanciafiamme, l'onda è una bocca rossa che stronca la vita di 7 operai. Alcuni colleghi, come Giovanni Pignalosa e Peter Adamo, hanno ancora davanti agli occhi i corpi dei loro compagni trasformati in torce umane. Se li ricordano che avanzano verso di loro, le mani protese, gli occhi fuori dalle orbite, la pelle sciolta dalle fiamme. Guarda, guarda cosa mi sono fatto, com'è la faccia con me, aiutami, ti prego, aiutami! Gli estintori, vuoti, se ne vanno tutti, uno dopo l'altro. Antonio Schiavone muore per primo, la notte stessa. Angelo Laurino e Roberto Scola il giorno dopo. Rosario Rodinò resiste 13 giorni col corpo ricoperto da ustioni e poi se ne va, raggiungendo Bruno Santino e Rocco Marzo. Giuseppe De Masi, detto Mase, è l'ultimo a morire, il 30 dicembre, dopo 4 interventi chirurgici, una tracheotomia e 3 rimozioni di cute in attesa della pelle nuova. Erano fantasmi quella notte, i 7 uomini della Thyssen. Gli operai superstiti dicono che sono morti perché diventati invisibili come i fantasmi. L'invisibilità degli operai, come quella dei soldati, entrambi sacrificati sull'altare del profitto. Nel primo conflitto mondiale, l'industria della siderurgia utilizza la sua influenza affinché la guerra duri il più possibile. Da questa parte Schneider, il più importante mercante di cannoni francesi e... No, scusa, aspetta, Schneider? Francese? Ma chi vuoi prendere in giro? Dai, di là c'era Krupp, tedesco. I due si uniscono in un trust il cui scopo segreto è aumentare il profitto dei propri membri, grazie alla produzione bellica. I soldati vengono mandati a scannarsi l'un l'altro, mentre i fabbricanti d'armi, fraternamente uniti, seguono con soddisfazione quel dramma. Il francese. Guarda, cavo, come si abbasciano i parigini prima di morire. Ma quale paura, se la fraternità, dai. Il tedesco. Si vede che gode, ma con stitichezza, a chiappe strette. Non si sa mai. I soldati sono un loro strumento, come i lavoratori lo sono del padrone. Lui li paga e quindi ne fa ciò che vuole. Così hanno parlato i vertici della Thyssen il mattino dopo il mortale incidente. Lui li paga e quindi ne fa ciò che vuole. Nella fabbrica dei tedeschi, come la chiamavano a Torino, l'ASL ha accertato 116 violazioni. quando mi presero in fabbrica, erano gli anni 50, la guerra alle spalle mai troppo lontana. Per noi di campagna istruiti da una terra che mangiare dava rate, una gran bella sensazione. Cresciuti a pane, calci in culo, scarpe rotte, mani nere, buone solo per pregare. La sera alla Valera eri un quasi fortunato, un bicchiere di Barbera buono solo per scordare. E tu, ubriaco, non capivi le domande di tua moglie, le certezze del padrone. Guarda la polvere colorata sul muro, che strana polvere colorata sul muro. Cos'è quella polvere colorata sul muro? Cos'è? Cos'è? Inzuppati per reparto a fine turno, appoggiati al muro fuori dal portone. Ispirare aria pulita dalla notte ormai inoltrata, che ti sputa addosso tutto il suo colore. E di giorno con la tuta blu cobalto a smanettare a Cottimo per ore. Ci sembrava ormai lontana quella guerra d'altri tempi, quella guerra, guerra partigiana. Guarda la polvere colorata sul muro, che strana polvere colorata sul muro. Cos'è quella polvere colorata sul muro? Cos'è? Cos'è? Quando mi presero alla Marzotto, la mamma mi disse: ti ha vinto al totocalcio. Alla Marzotto c'erano i Cottimi. Più lavoravi, più guadagnavi. Il marcatempi col cronometro in mano contava quanto impiegavi a togliere la bobina e quanto a rimetterla. Ti seguiva qualsiasi cosa tu facessi e quando andavi al gabinetto, tac, lo fermava, veniva con te in bagno e controllava quanto rimanevi dentro. Non guardar, per favore, che dovevi scappar fuori con i calzoni ancora calati perché stavi perdendo tempo. Maniaci. Quando nel 68 la Marzotto decise di rivedere i Cottimi minacciando 400 licenziamenti, successe l'imprevedibile. Una notte gli uffici dove erano sistemati i nuovi elenchi dei ritmi furono invasi e gli elenchi distrutti. Una riappropriazione della vita quando si riesce a dire no, una scintilla, fermare il reparto, premere i pulsanti, serrare le valvole, fare le manovre, questa volta decidiamo noi, sciopero! Tutto immobile. Le macchine, le pompe, le turbine non girano più, i fluidi non circolano nei tubi e soprattutto il silenzio, la calma, il simbolo della nostra forza per dire no alla gerarchia. Dire no è bello. Il 19 aprile 68, 4.000 dimostranti manifestarono per le strade di Valdagno e nella piazza principale venne abbattuta la statua del conte Gaetano Marzotto, fondatore della dinastia tessile. In quei giorni guardavo le facce dei capi. Non riuscivano a farsi ascoltare dagli operai che gridavano loro: io sono in sciopero a partire da adesso, la vita è la mia. Mia. Finché una mattina mi sveglio con un forte dolore al petto. Allora ho capito che negli ultimi 20 anni la mia vita l'avevo data in concessione all'azienda. Mesotelioma. Mesotelioma è il tumore di chi ha respirato fibre di amianto. Nel reparto della morte alla Marlane Marzotto di Praia sono stati accertati 120 casi di cancro. Cancro. Quante volte abbiamo sentito questa parola? Ma non è mai cancro e basta. È morte causata da malattia contratta nel luogo di lavoro. Le cause? La fatica, le polveri, lo stress. Ad alcuni si guasta il cuore, ad altri i polmoni, la schiena si rompe, le arterie si chiudono. Il pneumologo, Pieraldo Canessa, ci dice che ogni anno in Italia le morti solo per mesotelioma sono più di 3.000. Le autorità forniscono invece il dato di 110 l'anno. Anomalia italiana. Le fibre di amianto ti penetrano la pleura, poi d'improvviso anche dopo anni si risvegliano. Sono tornata, sono la fibra di amianto, pensavo di averla scampata, nessuno mi aveva detto che non hai il tempo di mettere assieme le idee che nell'arco di un mese ste stronze ti annegano di liquido i polmoni. Il periodo di latenza del tumore arriva fino a 50 anni, il che vuol dire che tra il 2010 e il 2020 avremo il picco della mortalità. Ah! E anche di questo nessuno... Shh! È inutile. Già nel 62 si era scoperto che l'amianto è cancerogeno. Perché allora non ce l'han detto? Perché si sono volute condannare a morte migliaia di persone? Io un'opinione ce l'ho. Ma solitamente, per rispondere ai perché, ci sono i processi. Sì, è vero, i processi arrivano tardi, i tempi sono lunghi, gli imputati vecchi o già defunti. Resta comunque la giustizia sulla carta, che fa sì il suo dovere, ma non riporta in vita tuo marito. Sono Albino Stella. Ho 48 anni. Ho lavorato nel reparto gamma dal 51 al 55. Solo dopo essermene andato, ho capito che quello era l'inferno. Era tardi, il cancro mi aveva già colpito. Pisa Brut lo chiamavano, perché da un giorno all'altro pisciavi sangue. Nel reparto eravamo in 6. Giuseppe Possio è morto. Ariano Sbramante è stato bruciato 8 o 9 volte. Carrera, 3 folgorazioni. Benedetto Vanotto, morto. Giovanni Beria, malato. Poi ci sono io. Pino Stella è solo uno delle decine di operai ai quali dà voce Mauro Benedetti, in un libro, La morte colorata, che da solo vale già un intero spettacolo. La scena si apre su uno scorcio del Basso Canavese. Lì, in fondo, c'è Cirié, cittadina in mezzo a un'area disastrata. Pochi campi che non danno nemmeno la sicurezza del pane. Popolazione. Contadini scarsamente scolarizzati, istintivamente individualisti. Sindacato, debole. Chiesa, sempre presente. Stato, non pervenuto. Sono questi elementi che, coagulati da una miseria feroce, nel 1921 creano l'IPCA, quando il 29 dicembre arrivano quei milanesi, i ghisotti, ricchi, decisi, per molti acerie, è la liberazione. Nel 21? Cosa non si fa per il denaro? L'IPCA assume e paga anilina, benzidina, betanaftilamina. Per gli ex contadini quelle non sono neppure parole, solo suoni. Per loro, abituati a vangare la terra avara del Canavese, vangare polveri colorate, non è diversa fatica. Lavorano, e lavorando passano gli anni, viene la guerra, l'IPCA prospera, decine, centinaia di operai si succedono nei reparti. Qualcuno si ammala, cominciano a girare strane voci, ma si tira avanti. Gli ex contadini, testardi, orgogliosi, non vogliono star male, nati nei campi, odiano i dottori. Passerà, si dicono l'un l'altro, quando le mani tremano, bevendo all'osteria, quando la testa gira la mattina. Viene il 50. Muore un operaio, si chiama Sifletto Michele. Poi tocca a Gori Matteo, poi... Mi chiamo Anita Trivero, figlia di Pasquale, morto dopo 38 anni all'IPCA. Pensi un po', signor Presidente. Diceva che il dottore li visitava in fotografia, oppure li mandava ai raggi. Radiografie allo stomaco. E diceva che tutto andava bene. Certo che andava bene. Il cancro, mio padre, l'aveva alla vescica, mica allo stomaco. Quando si rese conto di essere malato nel 69, se ne venne via. Ma ormai era tardi. È morto l'altro anno. Un mese dopo di lui... Nel maggio 71 sono morti anche Prato Messina, Cottino e Franco. Un massacro. Troppa gente all'IPCA ha venduto la pelle per poche lire, gente ignorante. Anche mio padre. E anch'io, in fondo, che non ho mai capito che là dentro lui mi si ammazzava. E ogni tanto sì, andavano a chiedere qualcosa, coperchi per le tine, guanti, tute. Ma loro... I padroni dicevano che non si potevano spendere soldi per gli impianti. Se vi va, è così, altrimenti la porta è quella. E allora si rassegnavano a star lì, dove anche i topi morivano nell'arco di una sola notte. Che altro posso dire, signor Presidente? Un posto dove non scampano neppure i topi non ha bisogno che io parli. Difficile capire, per chi ha avuto come maestri i padri e come scuola la terra del Canavese, e va dai padroni come i vassalli dal Signore, va a implorare di non morire, scrive lettere piene di errori che nessuno legge mai. Lavorano all'IPCA 370 operai e si producono colori in anilina. L'ambiente è altamente nocivo. I lavoratori vengono trasformati in maschere irriconoscibili. Sui volti si posa una pasta multicolore, vischiosa, con odori nauseabondi. Fumi. polveri, acidi sparsi a terra e grondanti dai tetti. E ovunque, colori, un arcobaleno di colori. Gli operai ne escono intrisi fino alla pelle, marcati per reparto, ognuno con la sua tinta addosso, nelle mani, sulle labbra, fra i capelli e le ciglia. Pietro Calorio, perito chimico, direttore da 62. Silvio Ghisotti, ingegnere edile, impiegato padrone dagli anni 50. Giovanni Mussa, dottore, ex sindaco democristiano, ex direttore sanitario, medico di fabbrica all'IPCA dal 29 al 71. Loro non vedono polveri, non respirano fumo, non mangiano veleno. Nel massimo spregio degli studi d'anteguerra, i Ghisotti impostano la loro fabbrica ripetendo le pessime esperienze tedesche e svizzere. Italiani! 2 anni dopo, per chi non conoscesse il tedesco, ecco un connazionale, l'urologo Di Maio, rendere noto il primo caso. Il messaggio è chiaro. L'IPCA da 26 anni avvelena i suoi dipendenti. Indignazione. Poi ancora silenzio. Per altri 20 anni il Basso Canavese, le valli di Lanzo, la cintura di Torino hanno impresso il terribile marchio, un rosario di nomi accanto a ogni nome più di una croce. E tutto in silenzio, fino al 72. Nel 72 il processo. A testimoniare gli operai, gli scampati, gli ammalati e i morti per bocca delle loro donne. Sono Rosanna De Angelis, vedova Franza, nata alla Spezia. Ho 39 anni. Sono qui per dire quello che avrebbe detto mio marito se non fosse morto un anno fa, per dire delle sue sofferenze e delle mie, da quel giorno del 51, quando entrò all'IPCA. Vi rimase 6 anni. Dentro la fabbrica c'erano medico e infermiera. Giovanni Mussa, uomo dalle molte cariche e dai capelli bianchi, e Consolata Zucca. Bella coppia, gliela raccomando. Il dottore mi chiedeva se fumavo, bevevo e mangiavo. Diceva di fumare meno se gli dicevo di fumare molto, di mangiare di più se gli dicevo di mangiare poco e di bere meno se gli dicevo di bere tanto. Poi, una volta che sono svenuto, mi ha preso la pressione. Bassissima. Ma non mi disse che la colpa era dell'ammoniaca che respiravo. Disse di mangiare di più. Quando me ne andai, il mio destino era già segnato. Passarono altri 9 anni. Comparvero i primi bruciori, la stanchezza, il male. Avevamo sentito parlare di quella faccenda del cancro e andammo all'ospedale di Cirié, dove gli fecero le radiografie. Il radiologo, Luigi Mussa, figlio del medico di fabbrica. Nella vescica non vide nulla. 4 mesi dopo, il professor Sesia, alle Molinette di Torino, mi portò via un tumore grosso come un mandarino. Per un po' la bestia stette buona. Poi i dolori ripresero, folgorazioni, bruciature, altri interventi, finché andammo a Lugano e poi in America. Gli fecero un'operazione di 13 ore. Aveva un buco enorme nella pancia. Ebbe inizio un martirio atroce, cure dolorose, costose, viaggi in America e altri interventi. Ma tutto è stato inutile. È morto il 16 giugno del 76 e fino all'ultimo i suoi pensieri sono stati rivolti a questo processo. Io lo so che devo morire, ma voglio arrivare al giorno in cui si farà il processo a quelli là per dire le cose che mi hanno fatto passare. Ormai non ho altro traguardo. Non posso bere, non posso fumare, mia moglie posso solo guardarla e praticamente sono sempre in cura. Il tutto con la certezza che prima o poi morirò anch'io. Come tanti compagni prima di me. Sì, sì, sì. Aveva tanto coraggio, ma non gli è bastato. Mi ha lasciato con un bambino di 13 anni, una ragazza di 21 e 140.000 lire al mese di pensione. Sono Assunta Baima, vedova Franco. Mio marito si chiamava Emilio. È morto di cancro all'età di 53 anni. Sulle lenzuola a casa ho ancora la sagoma del suo corpo. Infatti, pur facendo il bagno tutte le sere, di notte quei colori che aveva dentro uscivano, passavano la pelle, il pigiama, impregnavano le lenzuola. Le macchie non andavano più via nemmeno con la conegrina. In agonia urlava così forte che lo sentivano dalle case vicine. Sono Maria Marietta, vedova Savarino. Sono Livia Caglieris, vedova Gori Matteo. Sono Delfina Broda, vedova Messina. donna. Vedova Lorenzo Martinello. Le sue cose. Vedova Santino Tugo. Nel vento. Vedova Giuseppe Chiesa. Non vedi quella giacca vuota, rallenta il tempo. Maria, moglie non più moglie di un marito perso. Le sue grida nella notte ti ritorna in testa come un lampo mesto. Non sei che polvere colorata sul muro, sei solo polvere colorata sul muro. Nella stanza c'è l'odore del piombo, con le impronte inaridite, quelle frasi mute. Se ti perdo non ho colpa e non capisco, la mia vita avrei vissuto, ma era solo troppo presto. E il ventre ti han scavato di terrore, ti han trafitto tra coperte verniciate. Rimaste che parole sopra un foglio, voglia di non dover morire, una tuta appesa al cielo. Livia dalla ciminiera al profumo sta salendo, nessuno si è curato che lui fosse solo un uomo. Vedova, ti ha lasciata sola con tuo figlio al collo. 140.000 lire e un lenzuolo blu cobalto. Non sei che polvere colorata sul muro, sei solo polvere colorata sul muro. Non sei che polvere colorata sul muro. Ah, a fine anni 70 le condizioni dei lavoratori vanno migliorando grazie a quelle norme chiamate diritto del lavoro. Ma se poi un giorno decidi che anche questo è troppo perché ostacola alla competitività, allora ancora una volta non capisco cosa ci si è battuti a fare in quegli anni. Cos'è successo? Lo sai bene cos'è successo. Lo so, fa male, brucia ancora, ma tuo figlio dovrai pur dire di come il potere, quando sente tremare la terra sotto i piedi, non esiti ad ammazzare. La dichiarazione di Filadelfia sanciva che il lavoro non è una merce, in quanto elemento integrante del soggetto che lo presta, della sua identità, della sua vita presente e futura. No, presente sì, ma futura no. In futuro, abbiamo deciso, il lavoro non sarà più un elemento della vita, ma la vita sarà parte del lavoro. Si chiama inversione di tendenza. Da ora in poi tutto sarà merce da comprare, pagare, accumulare. Si sono guardati in faccia e uno fa l'altra. Da dove iniziamo? Tiriamo i dati, risponde lei. Mi piace immaginarli così, seduti attorno a un tavolo con i dati del Monopoli in mano, Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Come 60 anni prima i loro pari attorno a un tavolo con i carurmattini del risico. Quella era solo prima guerra mondiale. Questa si chiama deregulation, che significa girare all'indietro l'orologio della storia del lavoro, in modo da tornare ai tempi in cui veniva venduto dall'individuo all'impresa come una merce. Il nocciolo della deregulation è una reazione antifiscale. Lo Stato tratta troppo bene i suoi cittadini comuni a discapito dei suoi cittadini ricchi. Bisogna ribaltare la frittata. Ma come fare per non cascare in un nuovo 68? Distraiamoli, ha pensato lui. Parla come la Thatcher. Sarà perché faceva l'attore prima di essere eletto presidente degli Stati Uniti. Due armi utilizzarono, l'individualismo e la rivendicazione della libertà. Ma mentre mendicanti e senza tetto tornano ad affollare i marciapiedi delle città, il valore supremo dei tempi moderni diventa uno slogan pubblicitario. Libertà dalle limitazioni, dallo Stato, dalla società. Libertà è la libertà mia e non la tua. E io sono e la società non esiste più. Cos'è stato? Eh? Han buttato giù il muro? Ah... E adesso? Profitto. Profitto, profitto, profitto, profitto, profitto, profitto, profitto, profitto, profitto, profitto, profitto, profitto, nascono come i funghi, profitto, profitto, profitto, profitto, è la totale commercializzazione della società, tutto deve rendere profitto, ora i padroni siamo noi e noi controlliamo l'organismo che ci deve controllare, si chiama WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio. Chi ha ucciso Li Kyung-hae? Gli Stati Uniti sussidiano i loro allevatori affinché producano a prezzi inferiori dei vostri? Chi ha ucciso Li Kyung-hae? Il crollo dell'Unione Sovietica sarà compensato dalla crescente domanda cinese? Chi ha ucciso Li Kyung-hae? E se il mercato della carne sale, il tasso di cambio sarà abbastanza basso da poter esportare? Questi fattori non vi competono più. Lee è uno dei tantissimi contadini coreani obbligati a lasciare la propria terra a causa dell'abolizione dei dazi sui prodotti agricoli e in particolare sull'importazione della carne. Il prezzo del bestiame cola a picco. I contadini sono costretti a rinfoltire le mandrie aprendo nuovi mutui, come consigliato dallo Stato. Ma il prezzo rimane basso e per pagare gli interessi anche lì sono costretti a vendere prima le bestie, poi la fattoria e infine la terra. Succubi delle scelte altrui, alla mercé del mercato. Il 10 settembre 2003, durante la riunione del WTO a Cancun, Lee scavalca le barriere dietro le quali si tiene l'incontro, apre il suo serramanico rosso e se lo pianta nel petto, uccidendosi. Il suo è il tentativo estremo di rivendicare il controllo del proprio corpo in segno di sfida a un sistema che non glielo permetteva più. Chi ha ucciso Li Kyung-hae non c'è più dato saperlo. I processi da questo momento non contano più niente. Nessuno più pagherà per i danni commessi. Così pensi che se a casa tua hanno riportato la schiavitù, c'è un posto nel mondo dove tutti possono vivere bene e arricchirsi con poco sforzo. Da noi si chiamerebbe paradiso. Per chi vive nel sud del mondo si chiama Europa. Pensi di sbarcare in paradiso e sbarchi all'inferno. E in ogni regione c'è un inferno che è più inferno degli altri. Questo posto in Sicilia si chiama Vittoria, ma potrebbe essere la campagna di Castel Volturno o la Puglia del Triangolo degli Schiavi tra Cerignola, Candela e San Severo. Negli anni 60 i boss della mafia palermitana vengono mandati al confino qui. I Gambino, i Lo Cicero, i Genovese, i Bagarella comprano terre per poche lire e le trasformano in campi luccicanti oro, arance, pomodori, peperoni, melanzane. La longa mano mafiosa penetra nel primo mercato ortofrutticolo alla produzione d'Italia, stabilisce i prezzi della merce, ne decide il tragitto per lo stivale, seleziona i produttori da cui acquistare e quelli da mobbizzare. In estate, nei campi si affollano migliaia di persone accampate in tende di fortuna e baracche di cartone, senza acqua, luce né igiene. A Piazza Manin, quando il sole lambisce ancora l'orizzonte, gli anziani si ritrovano fuori dai bar. Da lontano un'auto arriva a tutta velocità, una Golf grigio scuro. Sono i caporali, gente del posto, padri di famiglia che da anni fanno solo questo, intercettano i lavoratori invisibili sulle coste e li portano nei campi. Più caricano la macchina, più ci guadagnano. Da agosto a ottobre così inizia la giornata dei braccianti, stipati su una Golf grigio scuro in 9. 3 davanti, 5 dietro e un ragazzo sul pianale posteriore. È la raccolta dei pomodori. Ecco, le auto ferme vicino ai campi. L'omelia di un uomo parla italiano, camicia bianca, pantaloni neri e scarpe impolverate. Recita ogni giorno l'orazione di fede. Tutti traducono nella propria lingua, inginocchiati focalizzando l'immagine dei pomodori da raccogliere, fin quando c'è luce. Si lavora dalle 5 di mattina a mezzanotte, per una paga che va dai 20 ai 30 euro, sempre in nero. La giornata a Vittoria passa sempre allo stesso modo, varia il ritmo. Se la mattina col fresco le braccia girano bene, quando il sole è a perpendicolare cominci a sudare, ti disidrati, i muscoli diventano sempre più duri e senti il sangue che pulsa sotto la pelle. La sera, i corpi stanchi risalgono nelle auto, sembrano sfaldarsi, disfarsi della loro polpa secca. In questo girone dantesco, accanto agli uomini, ci sono le donne. «Ce l'hai un'amica?» chiede il caporale. «Mi devi portare un'amica per il padrone. Se gliela porti, ti fa lavorare subito». Ramona ha i capelli biondi, rovinati dal sole. Gli occhi sono celesti e truccati. Suo figlio, Johan, vive a 300 chilometri da Varsavia con i nonni. Ramona è polacca. Giovanka, una ragazza di 32 anni, viene molestata e picchiata dal suo caporale. Eravamo in macchina. Mi ha presa a pugni perché non volevo fare quello che mi chiedeva. Poi mi ha lasciata. Mi ha lasciata per strada. La violenza sulle donne è comune e gratuita, ma non è la sola. Chi si presenta tardi al lavoro viene punito a pugni. Chi non si presenta deve versare al caporale la multa, anche se si ammala, 20 euro, la paga di un giorno. Quelli che scappano vengono inseguiti, picchiati e riportati al lavoro. Qualcun altro viene ammazzato. A fine 2006 più di 100 polacchi non hanno fatto ritorno a casa, bruciati, affogati, strangolati e investiti nella zona del tavoliere. Di storie così ce ne sono troppe. Sono storie soffocate dalla paura di denunciare quella mafia che violenta e sfrutta le donne, che spreme le braccia degli uomini a 2 euro l'ora per riempire bancali di merce diretta a nord, nei mercati di Bologna, Verona, Padova, Trieste, diretta a Milano. Questa è la storia di Pavel, perso tra piante di pomodoro. La schiena piegata, le gambe a compasso, i giorni passati a non credersi uomo. Essere umano solo per qualcuno, per noi italiani poco più d'un cane, zitto non mordere, sogno il padrone, se vuoi morire puoi morire di fame. Questa è la storia di Pavel, che fu picchiato dal suo caporale per aver chiesto una vita migliore. Un poco d'acqua ed un tozzo di pane, la sbarra di ferro gli ruppe le ossa, ferite profonde aprì nella carne, lasciato marcire lì al sole per ore, perché chi protesta si deve educare, perché chi protesta si deve educare. Milano, dicevamo, Milano si è appena svegliata. È l'alba, ma è già tutta movimento di uomini e mezzi. Sono operai, manovali, muratori, elettricisti, idraulici, falegnami, imbianchini. Arrivano dalle tante città lombarde, molti sono cottimisti, altri arrangiano. Vendono le loro braccia in uno dei tanti mercati del lavoro di Milano. I caporali scelgono chi prendere, 2 manovali, 3 muratori e un carpentiere. Salgono in auto e via, verso i cantieri. La manovalanza, sfinita dai ritmi sfiancanti e dal sonno accumulato, viene portata in giro per la Lombardia. Si chiamano Manuel, Rocco, Chandor, Ali. Inseguono un sogno, chi di rivincita, chi di emancipazione, chi di riscatto. E per quel sogno sono finiti qui, tra le scavatrici e i calcinacci del cantiere, a rischiare la vita. Chi c'è, c'è. La paga è di 3,50 euro l'ora, dalle 7 alle 17. Un lavoratore regolare costa 21 euro l'ora. La metà rimane tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltante. Ciò che resta se lo intasca il caporale, al quale tu, operaio, sei costretto a pagare la tangente per tenerti sto schifo di posto, restando muto quando ti fai male. Il caporale è onnipresente. Per strada, all'ingresso del cantiere, sul furgone, e poi in piazza per dirti che da domani non servi più. Perché così e basta. Così, sfibrato e abbrutito, continui a girarti per il cantiere, zitto e con la paura di morire, cadendo da un'impalcatura o centrato alla testa da una benna d'acciaio sanguinante sul piazzale, ma sempre zitto, o sono cazzi tuoi. E fu portato alla polizia con ferri e chiodi dentro le braccia, e gli fu dato il foglio di via e risbattuto nei campi di Foggia. Passò 9 giorni con dolori atroci, quasi a digiuno in un casolare, con le ferite in setticemia, fu riportato all'ospedale, fu riportato in ospedale, fu riportato dentro all'ospedale. Abdes Salem Salassi, detto Salem, nasce in Marocco 40 anni fa da una famiglia povera. Un fratello, una sorella, una madre vedova. Grazie a lei frequenta l'università e si laurea in matematica. Ma nel 2001 sbarca in Italia da clandestino e trova il suo primo lavoro. Accudisce greggi e mandrie d'estate in alpeggio, in nero. L'estate passa veloce, con la fine dell'estate finisce anche il lavoro. Così Salem decide di andarlo a cercare in città, a Como, dove, sempre in nero, trova occupazione come manovale alle imprese Spelzini. Le sue braccia valgono 2 euro l'ora. Il 15 febbraio 2002 Salem sta staccando lastre di Ethernet dal tetto di una casa. Niente casco, niente cintura di protezione. Cade. Vola per 6 metri. Ora Salem è un fantoccio floscio, gambe e braccia scomposte, fratture in più punti, trauma cranico violentissimo, ma nessuno muove un dito, ordine tassativo del padrone, chiamate solo me. Così fanno. Il padrone arriva e decide di nascondere l'incidente. Assieme agli operai carica quello che sembra un corpo esanime su un furgone pieno di calcinacci e lo abbandona a 30 chilometri di distanza. Sul ciglio di una strada a Nuovo Olonio, provincia di Sondrio, come un carico di rifiuti. Quando dimesso ritorno in questura per denunciare il suo caporale, ma fu arrestato da clandestino perché l'espulsione non poteva rispettare. Allora mi chiedo a che cosa è servito credersi a lungo un paese civile, se in questa terra è più forte la mafia, se anche la morte ha paura a parlare. Verrà domani un altro migrante, avendo capito chi è il suo padrone, se ne starà zitto in ginocchio per terra, ad ascoltare, a rivender parole. E allora Pavel, raccogli i tuoi stracci, inforca la bici e scappa alla morte, prima che inizi la caccia nei campi, prima che qualcuno si venda alla sorte. Si venda alla sorte. Il modello sociale del nuovo millennio richiede il sacrificio totale. Si chiama modello 7x24, la totale flessibilità dell'occupazione. È la possibilità per un'impresa di utilizzare la forza lavoro come l'energia elettrica, portando quando serve l'interruttore su on oppure su off. On, off. On, off. Detto fatto, primo comandamento, non assumere. E così il vecchio lavoro si veste di nuovi colori. Irregolare, precario, flessibile, informale, di collaborazione, in affitto, parziale, ripartito, interinale, in somministrazione. Che cos'è? Una medicina? Prende 2 capsule di lavoro dopo i pasti. Speriamo di non essere allergico. Ma non finisce qui, la flessibilità si estende anche a... salari, orari, tipologie, variazioni in modalità straordinari, condizioni, ritmo, tipo, luogo, trasferimento, reparti, sedi. Sembra un percorso a ostacoli. Ti facciamo lavorare dal lunedì al mercoledì, dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 19, tranne il martedì che fai dalle 16 alle 21 alla sede centrale, il giovedì la mattina nella filiale B, poi la sera 4 ore e la notte altre 3 e di straordinario, il venerdì a casa perché hai fatto la notte, ma puoi venire un paio d'ore la sera altrimenti ti licenzio, il sabato fai apertura e poi un'ora sì, una no fino alle 18. È di un sadismo sconvolgente. È come essere schiavi 500 anni fa. Sei a disposizione del padrone 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ah, ecco. Tutto è finito per noi quando assunsero Marco in fabbrica. Gli avevano detto che presto lo avrebbero messo in regola, ma c'era la crisi e dovevano per un po' venirsi incontro. Il solito inganno del padrone. Vanni spiegò a Marco che lo Stato è un predatore rapace e ci mangia più della metà del tuo stipendio. Così preferiamo metterne in busta un po' di più a te, non ti sembra giusto? Sì, era giusto. Ma aveva come la sensazione che Vanni di quella metà se ne mettesse in tasca un bel po'. Vanni, basso, quasi senza collo, schiacciato, la faccia sempre incazzata. Gliene aveva parlato qualche mese prima Claudio, che abitava nella strada appresso alla nostra. Il mese scorso sono andato a un colloquio. Cercavano un operaio specializzato in... Uno, una, serio, seria, motivato, motivata, diplomato, diplomata, automunita, automunita, astenersi per di tempo. Uno, si presenti il candidato. Mi chiamo Claudio Martone, ho 29 anni, mi sono diplomato nel 2000 come tecnico meccanico. Da allora ho fatto il disegnatore tecnico, e poi manutentore e da ultimo il montaggista. Mio padre, mio padre si occupa di posature in opera di pavimenti e mia madre invece è casalinga. E tengo due fratelli. Il primo è posatore e l'altro, manco a dirlo, è posatore di pavimenti in marmo. E poi non ho ancora capito che cazzo mi sorrido a fare. Sta menata dei colloqui sembra diventata il mio mestiere. 2. Test di gruppo. La psicologa ha preso dello scotch, si è messa ad attaccarlo ovunque, a terra, alle pareti, alle finestre, poi ha tirato fuori una palla e ce l'ha tirata contro. «Dovete prendere la palla al volo!» ha urlato. «Dovete passarvela senza farla cadere e costringere i vostri compagni a mettere i piedi sullo scotch! Questo posto è una gara, chi tocca lo scotch è fuori!» 3. Colloquio individuale. Mi si para davanti sto tipo, basso, quasi senza collo, schiacciato, la faccia incazzata, mi piglia la misura del cranio col compasso. Mi rasa i capelli, prende il bisturi, mi stacca la calotta cranica, mi scansiona il cervello fettina per fettina, longitudinalmente, verticalmente e attraverso. A lei succede sempre la stessa cosa. 3 impieghi con contratto di formazione. Se parlo è finita. Fermo in silenzio, non devo muovere un muscolo. Un cenno improvviso, un'alzata di spalle, uno sguardo al soffitto, il piede che tamburella, non devo farmi fregare. Quella aspetta. Niente. E non viene riconfermato. Non le pare un po' strano? Marco, come era prevedibile, continuò a lavorare in nero. Lui e gli altri che con lui venivano spostati ogni 2 settimane da un reparto all'altro. Per questo la squadra si era ribattezzata, i Senza Fissa Dimora. Marco era un tipo molto chiuso e dai suoi brevi racconti non ero ancora riuscita a capire cosa producesse la fabbrica. «Sono strumenti per la misurazione statica e altre cose simili», mi spiegò Marco un giorno. «E a che servono quei silos enormi?» «Quello è il magazzino. Una volta al mese dobbiamo andare dentro e pulire tutto, lavare, disinfettare, togliere i residui. Alla fine sviti il tappo e rovesci la poltiglia puzzolente in un bidone su cui c'è scritto «esausto». Marco non parlava molto, così una volta chiesi a Claudio: «Queste macchine sono lo stomaco in cui viene digerito il semilavorato. Continuo a ciappettare in pilota automatico dei cilindretti che vanno pressati. Sguardo perso nella concentrazione. Allargare il foro quando c'è da dilatare, mettere a contrasto il cacciavite quando c'è da estrarre la guarnizione piantata male. Sistemati gli anelli in un tarallo, ci pianto dentro un termometro. Eseguita l'operazione, spingo la piastra verso l'altro collega che schiaccia 2 pulsanti contemporaneamente. Il maglio conficca un pistoncino nell'apposita sede. Madonna, non mi posso capacitare! Non possono esistere dei lavori così monotoni!» L'altro giorno, poi, c'è stato il discorso mensile dell'ingegnere. Ha detto che l'anno chiude male. Previsioni negative, impreviste difficoltà congiunturali. A metà discorso vedo Antonio che si alza e gli dico che mica farei sul serio. «Ingegnere, voglio sapere soltanto 2 cose. Quando vedremo il primo stipendio e quanto?» Silenzio. «Non abbiamo visto neppure 1 euro. Stiamo facendo la formazione da 1 anno. E mo' i punti, e mo' lo stage. Quante prove dobbiamo ancora superare?» Silenzio. «Mo' ci avete messo pure sui turni. Lavoriamo pure la notte.» Silenzio, silenzio, silenzio. «Mi state facendo fare la muffa, sto invecchiando a gratis, non tengo più soldi per l'auto, sto per fallire.» «Vede, signor Antonio, al momento la domanda non è pertinente. Il suo dovere oggi è uno solo, dimostrarci di sapere affrontare i problemi che le si pongono in postazione. pensi a superare i test, che al resto ci pensiamo noi. Dei soldi, poi, non se ne faccia un problema. Ah, non dovrei farmene un problema. Beh, sì, la domanda non è pertinente. Ma vaffanculo, va! Così gli ha risposto. Teneva una faccia luminosa che dopo due giorni è arrivato il Vanni e lo ha spostato di reparto, nell'ultimo capannone, dove stanno le teste calde. Scomparso per quasi un mese. Poi un giorno lo vado a trovare. Mancanza d'aria. Soffocamento. Bruciore alla gola. Programma del giorno. L'operatore deve controllare se ci sono perdite di pressione nella materia, fissare per alcuni minuti il pezzo immerso nel liquido solvente, guardare una spia rossa e una verde. Se si accende il verde, il pezzo passa. Verde, rosso, rosso, verde. 3000 pezzi al giorno. Se si accende il rosso, un fischio che spacca i timpani. Mentre il pezzo è immerso, sciacquo quelli pronti, li seleziono, ci attacco cartellini, li imballo, spruzzo un liquido verdastro. Mi volto per prendere aria. Niente mascherina, niente tappi. Ci sta solo la parananza giallo canarino, che mi avvolge il corpo e salutare, libera i pori della pelle, ottima come tutto dimagrante. Continuo a selezionare pezzi, inzuppato al gomito di liquame mortale, le mani rovinate, la pelle flaccida e strani gonfiori. È normale, dice. Succede fino a quando non vi abituate. Mettetevi sti guanti in lattice. Quelli usati per lavare i piatti. Relativamente impermeabili. Dopo mezza giornata, la sostanza li maciulla. Si va avanti a mani nude. Dove mi hanno sbattuto è un reparto punitivo. Qui ci mettono chi non è raccomandato, i rompicoglioni e i non integrati. È la terza notte che mi fottono, mi dice Antonio. Non dormo più, non penso più e non riesco più a tenerli aperti gli occhi. Sono confinato, non c'è margine di intervento e io non ho più forza a sufficienza in questa giornata di merda. Collega! Collega benemerito del lavoro socialmente inutile, patriota, rappresentante delle mie balle, della mia schiena spezzata. Che devo fare il 25? Il Natale, qua, il Natale di Cristo, siccome non ci hanno detto niente, che devo fare? Una notte Marco è rientrato a casa molto tardi dal turno e mi ha svegliata. C'è stato un incidente. No, non si è fatto male nessuno. Forse Claudio si è slogato un polso. Certo. Certo che ho paura. Quando entri là dentro ti devi calare. E se scivoli sei fottuto. Se sei un po' più stanco sei fottuto. Se ti distrai un attimo sei fottuto. E se sei fottuto puoi essere a un metro da terra o due. Ma anche a 10 o a 20. E se cadi da 20 metri. Se cadi da 20 metri. No, non abbiamo le protezioni. Chi vuoi che pensi a noi, ai senza fissa dimora? Siamo lì per pulire la merda e la merda ci fotte. Come è successo a Pietro, che è morto. E quel porco del Vanni, quella sera, è venuto dritto da noi e ce l'ha detto chiaro che dovevamo stare zitti, zitti con tutti anche a casa e fare come diceva lui, perché 5 poveracci come noi li trova dietro l'angolo. Così abbiamo caricato Pietro in macchina e l'abbiamo fatto. Ma io mi sento di averlo ammazzato, capisci? Ammazzato. Non ce la faccio più. Siamo quasi ai giorni nostri. Per capire quello che sta succedendo oggi nel mondo del lavoro, abbiamo bisogno di comprendere il sistema di produzione di merci. Il suo funzionamento è sempre stato questo. Da un lato necessita di forza lavoro, dall'altro è costretto dalla concorrenza a sostituire forza lavoro con macchine. Questa contraddizione è stata la causa di tutte le crisi dell'economia, che però si sono sempre potute superare grazie all'espansione dei mercati, ricollocando i lavoratori in esubero. Nella terza rivoluzione industriale, il mercato del lavoro raggiunge il suo limite, è saturo e per la prima volta i posti di lavoro cancellati non vengono più riassorbiti. Paura! Questa volta ci scoprono, ci serve un nuovo gioco di prestigio, alziamo il tiro! E così... Nelle crisi di ultima generazione anche i piccoli imprenditori diventano vittime, come manager e ingegneri. Caro Ionnel, alla tua età non ci sono più prospettive di carriera. Sei arrivato al massimo delle tue capacità. 49 anni. 30 passati dentro France Telecom. Con una lettera scopri che sei stato declassato da ingegnere per i sistemi aziendali ad addetto guasti, senza motivazione. Come un chirurgo che diventa barelliere. Esigenze aziendali. France Telecom, 14 luglio 2009. Michel, quadro dirigente, si è tolto la vita. In una lettera a familiari e colleghi scrive: mi uccido a causa del mio lavoro. Urgenza permanente, disorganizzazione, sovraccarico di lavoro mi hanno disorientato e perturbato. Sono diventato un relitto. Meglio farla finita. France Telecom, 12 agosto 2009. Nicolas, 28 anni, celibe senza figli, si è ucciso nella sua casa a Besançon. Era soggetto a mobilità forzata e gli era stato assegnato un incarico che riteneva squalificante. In una lettera scrive che «Oggi mi hanno insultato, vessato, urlato, ho chiesto aiuto, ma tutti se ne fottono. Il lavoro fa schifo e la gente è stronza. Anche questa settimana lavoro dalle 8 alle 19.30 con mezz'ora di pausa». France Telecom, 11 settembre 2009. Stéphanie, 32 anni, single. Si cambia d'abito 3 volte. Alle 18 apre la finestra del suo ufficio e si butta di sotto, schiantandosi sul marciapiede. Gli allievi cuochi della scuola alberghiera lì di fronte, in testa il lungo cappello bianco, tentano di soccorrerla. Aveva freddo. Ha chiesto una coperta e se l'è tirata sopra il viso. In una mail a suo padre scrive: «Buonasera, papà. Ho deciso di farlo oggi. Non accetto la nuova riorganizzazione. Per avere quello che sto per avere, è meglio morire». Dopo il declassamento, Lionel non ha più bisogno della valigetta. Si può dire che non lavori più. Hanno escogitato per lui qualcosa di speciale. Sul retro dell'edificio principale, dietro il parcheggio per le biciclette e i cassonetti per la carta, ci sono dei container uso ufficio guasti, parallelepipedi con le sbarre alle finestre. Al loro interno vengono lasciati gli apparecchi scartati. Lionel ha un container ufficio tutto per sé. Ci sono cestini per la carta straccia e prese di corrente, ma neanche un telefono, niente climatizzazione e niente bagno. Ogni lunedì Lionel trova appiccicata alla porta del container una busta con gli incarichi della settimana. Per ogni riparazione deve compilare a mano 6 modelli in duplice copia, mansione che gli occupa più della metà del tempo. Il venerdì infila i fogli in una busta, va nell'edificio principale e lascia la busta al portiere, il quale la consegna al capo ufficio, che, come dice Lionel, la butta nella spazzatura. Potrebbe correre la maratona. Potrebbe imparare a suonare uno strumento musicale, potrebbe fare il giro del mondo in bicicletta. Ma per il mercato del lavoro, Lionel è troppo vecchio. Quello che hanno praticato nei miei confronti è uno sport molto comune, si chiama mobbing. Consiste nel prendere calci in culo un indifeso. Sono più di 50 i dipendenti di France Telecom che si sono tolti la vita. 2 le frasi che danno la misura del dramma. Dice così: per mesi l'amministratore delegato Lombard ha parlato di moda dei suicidi, poi si è scusato. Ah, vabbè, se si è scusato, sì, ma dopo mesi, e cosa vuoi? Stai a guardare il pelo nell'uovo. La direzione della società gli fa eco, sostenendo che il tasso di suicidi è un livello normale per una compagnia delle sue dimensioni. Normale? Dove la vedi la normalità in un suicidio? Il primo significato di normale che si legge sul dizionario è conforme alla consuetudine. Un po' come il pranzo della domenica o la gita fuori porta il lunedì di Pasqua, statisticamente accettabile. Almeno ditecelo, che vi risparmiamo la fatica. Facciamo la conta. Tocca a me, tocca a te, tocca a me, tocca a te, tocca a me, tocca a te. E chi salta fuori? Lo spingiamo di sotto. Non siamo di fronte all'immolazione di un capro espiatorio. È il capro stesso che tende il collo, frutto non del caso, ma di scelte precise con nomi e cognomi. Così, quando si pone la domanda su chi alla prossima ondata di tagli sarà la vittima, anche il reparto vicino e persino il collega, l'amico, diventano nemici. Qui sta il crimine. Il ribelle, lo dice la parola, ricomincia sempre la guerra. Il suicida grida a muto che la guerra è finita. Il suicida è stanco di storia. Qui sta il crimine. Sono tutti andati. Così pare da fuori. Dentro la loro divisa, consumata alla schiena. Un motore truccato e le rate pagate per 1/4. Qui impera il futuro, confezionato su misura. Oggi in offerta, 3 anime e 1 auto. A misura d'uomo, a distanza d'1 braccio, l'uno dall'altro. per dovere verso se stessi sono saliti sull'ascensore. Al piano discesi hanno aperto le porte. 140 metri cubi di cemento e blu cobalto. Non importa, tanto c'è il salvaschermo. Una bella occasione se la borsa risale. Compra titoli sporchi sulla pelle di un uomo. La banca non copre, sgozziamo l'agnello. Non è questo il momento di stare a pensare. L'intelletto non vi è dato per questa ragione. Fate due uova, fate del sesso, state lontani gli uni dagli altri, provateci ancora, non è poi così male. Abbiamo bisogno di esseri umani. Oggi gli occhiali li ho oscurati di più. Mi dava fastidio vederli saltare. Tornavo a casa con un certo malore. Ho chiesto consiglio, non si può cancellare. Un poco d'acqua mi si asciuga la gola. Sarà la cravatta, il caldo, l'arsura. Vorrei dell'aria, ma non me lo posso permettere. Con gli ultimi soldi ho comprato un futuro. Sistema sul mercato migliore. Morti? Qualcuno, ma statisticamente accettabile. Noi siamo i buoni di giusti. Noi vendiamo la gloria, regaliamo la morte. Noi vendiamo la storia, ci compriamo la sorte. Il nostro sistema non lo puoi cancellare. Perché? Perché non ti abbiamo creato per fare domande. È oggi, questa mattina. Mi alzo, apro internet, guardo le notizie del giorno. Prima pagina, seconda, terza, quarta e... eccolo, ancora. Per cosa? 900 euro. Ma noi non sappiamo cosa significhi perdere un figlio per 900 euro al mese. Per questo chiediamo aiuto a Graziella. Madre prima di ogni altra cosa. Il tempo è poco, quindi il contesto lo facciamo noi. Ortezzano, Ascoli Piceno, fabbrica Asoplast, stampe in materiale plastico. Oggi Andrea avrebbe 27 anni, ma è morto l'ultimo mattino di primavera del 2006. Una macchina impazzita, tampografica Mag 1000 si chiama. La macchina dovrebbe avere 3 sistemi di sicurezza, ma quella Mag ne aveva solo uno, che era stato pure rimosso, e più di una volta era ripartita da sola, facendo scendere sul piano la pressa da 8 tonnellate. Avevamo deciso di comprare un appartamentino per Andrea, così che non fosse costretto a fare tutti i giorni 40 chilometri di strada. Ci sarebbe dovuto entrare il 24 giugno. Martedì 20... la macchina ricomincia a dare problemi, così Andrea fa quello che gli hanno detto, controlla gli inchiostri che stanno sotto la pressa, mette la Mag in stand-by e si china dentro la bocca del mostro. 8 tonnellate. Dopo qualche giorno è venuto un giornalista, voleva delle testimonianze. Ho telefonato ai ragazzi che avevano lavorato con Andrea e uno mi ha risposto: non posso mettermi contro l'Asoplast. E un altro ha detto: no, Non posso dire queste cose, anche se so che sono vere. Eppure il giornalista li avrebbe resi irriconoscibili. Paura. Paura di prendere la parola, di essere soggetto. Paura prima, quando si sarebbe trattato di dire fermiamo la macchina. E se la macchina non si ferma in nome delle sacre necessità della produzione, ci fermiamo noi. Paura dopo, perché il lavoratore è precario, nel senso più profondo della parola. Precario da prex, preghiera. Perché il posto di lavoro oggi è un privilegio e non lo si può perdere per nulla al mondo. La macchina deve lavorare anche se è pericolosa. Deve lavorare perché deve produrre e non si può fermare. Non si può fermare perché il cliente aspetta le forniture e se tu non gliele dai, gliele darà qualcun altro e noi perderemo il posto. Se dunque non si vuol perdere il lavoro, la macchina deve poter uccidere. Veramente una vita finalizzata al lavoro è vivere? O non è forse essere già morti? Diciamo le cose come stanno. Il lavoro uccide. È il quotidiano che ti ammazza. La vita è altrove. Sì, ecco cosa ho impiegato 11 anni a capire. Se non lavori non mangi, è solo uno slogan pubblicitario. La vita è altrove, in un posto dove la prospettiva è differente. E allora capisci che anche quella parola, caroshi, è solo un modo per giustificare. Il problema è nel concetto stesso di lavoro. Il verbo italiano lavorare viene dal laborare, che significa vacillare sotto un peso gravoso. La parola germanica, Arbeit, indica la fatica di un bambino diventato servo della gleba. Quelle romaniche, Travail e Trabaco, derivano dal latino tripalium, una specie di gioco inventato per torturare gli schiavi e le persone non libere. E la società, costretta dal tripalium del lavoro, inizia la sua parabola discendente. È il crollo della finanza. Il sistema era sì guasto, ma qualcuno ha accelerato il processo per arraffare anche le briciole. Per far questo viene rispolverata un'arma antica, si chiama paura. Sì, ricordo, la prima guerra mondiale, le acciaierie, il trust. I media amplificano il panico e le borse lo sentono. Noi naturalmente restiamo a guardare. Bello. Tragico, ma bello. I diritti dei lavoratori si uniformano verso il basso. La sanità non è più finanziabile, l'istruzione deperisce, le nazioni implodono, le reti sociali si strappano. Viene proclamata la legge dell'eutanasia sociale. Poiché sei povero e in esubero, devi morire prima. Può sembrare una visione un tantino apocalittica del futuro, tuttavia il presente pare essere già parte di quel futuro stesso. E allora mi chiedo, a cosa serva cercare altri palliativi a un sistema lavoro che fa acqua da tutte le parti? Non sarebbe più saggio prendere le distanze da esso e operare assieme affinché i nostri figli non siano più vittime? Perché vittime lo siamo tutti. Pensano di aver manipolato le nostre menti. Sono convinti che non ci batteremo per i nostri diritti. Io credo invece che esista ancora un filo che ci lega gli uni agli altri. E non è una morte comune. Si chiama legittima difesa. Credere che la condizione di schiavitù dei lavoratori possa essere eliminata con un salario aumentato in luogo di una vita migliore. Siete voi cospiratori nell'attuale imbecillità delle nazioni che vogliono produrre il più possibile a danno delle future generazioni. Che orrore! Lasciarsi persuadere che potenziando questa loro condizione la vergogna della schiavitù possa essere trasformata in bellezza e virtù di facciata. Siete voi cospiratori nell'attuale imbecillità delle nazioni che vogliono arricchirsi il più possibile sulle spalle delle future generazioni. Che orrore! Avere un prezzo per il quale non si è più una persona, ma si diventa un ingranaggio, uno stupido miraggio, un pezzo di ricambio del padrone. Un filo ci resta, un filo soltanto che ci lega e che si sta spezzando.